Lega KK, andare. Va bene, riprendete che mi guardo quelli sulla che ho in forno. Vabbè, io adesso vado a portare il cane, dai, vi saluto, sono andato solo per salutarvi. E per dire che mi hanno fatto un salasso, cazzo, all'indica, non vi dorro. Bene, già, voglio che il dito muore della dentiera. No, cioè non esiste, cazzo. Un ponte di due denti, indovina quanto vuole, 900 euro. Ti fai il biglietto dell'aereo, fai in Polonia, lì ci sono le sale dell'elefante, ti borreghisci. Ma perché già di nuovo problemi con le denti dopo che hai speso 15.000 euro? Sì, qua, si è rotto un ponte, sono rotti i ganci, ma come da me l'aggiungo bugliato? Vabbè, si è rotto un gancio del ponte di due denti, no, lì due denti solo, non l'ho fatto perché c'erano solo due denti, da me ce l'avevo messo un ponte, però mi si sono rotti i ganci dopo 5 anni e niente, non si può aggiustare, vuole rifare a nuovo, non vi sento io. Vai, arrasta. Per carità, dentisti, no, non c'è niente da fare, no, non c'è niente da fare. Va bene Gianni, dai, ciao a Chiattino e ciao anche a Gavino, un abbraccio, poi Gavino, ci vediamo con calma e posso trovarti, dai, così ti porto quella roba da riparare. Avanti Massimiliano, riprendi. Sì, sì, positivo, dai, saluto a Tino, e io siamo qua, non c'è problema, dai. E io, ascolta, io... un po' di fin di ferro zingato ce l'ho, una creta di aglia, oh già, siete accontenti? Ma mi può con cucchi dentro, buonanotte. Ah vai, cazzo non mi sento io. Un casino sono, i denti sono un casino però già. È un casino vero, io devo spendere più di 4.000 per la mia bocca, figurati. Però per il momento già rimango così, cosa nuova. Mangio come il cricetto, mi capito. Mi metto tutto nel fianco della guancia e poi piano piano inizio a rosicchiare. No, ma io già ce li ho tutti, solo che questi due praticamente c'avevo un ponte di due denti, no, e sono rotti i ganci, sono rotti i ganci finali, quelli che aggancia, ma qua non me la aggiungo di più perché sono fatti tipo uncino, so. C'è Giulia, è un casino, è un casino vero, e vabbè, che cosa ci vuoi fare? Avanti, Claudia. Massimilia, sei... io per i lavori di bocca prendo molto meno. Ah, io ho detto manuale, vostro, già usato. Vabbè, se c'è da fare qualche lavoro di bocca io prendo molto meno di 4.000 euro. A me, già lo so. E che ti esce rigata dopo. Ma ora cosa stai utilizzando qua? Sto usando il 3009, un 3009 modificato con microfono normale. La bediva la butta via. Figa, e hanno dei pinti. Ma vai a butta la bediva la classe, un bar 3009. Ehi, già te lo metto. Perché non va bene, ti? C'è l'eco chiuso, tutto chiuso. No, va bene. Insomma, ho detto che è radio differente da quelle che usi solitamente, ma la modulazione è bella. Mi sa che il numero vende 50 euro, beh. Se qualcuno lo vuole, Typhoon 2, modificato Colt. No. Guarda, ti posso proporre 120, non di più. 50 euro ho detto, non 120. Io te l'ho da posta. Ehi, no, c'è un tipo 125 euro spedito pure. Vai, cazzo, non mi prendo, non è che lo sto dando perché mi servono i soldi. Lo sto dando perché non lo sto usando, ecco. Poi quando sarà più in là, me lo compro un baracchino come si deve, nuovo, se pensa di cagare una nessuno, e fatto modificare. Beh, ascolta, una domanda un po' magari anche stupida, ma quell'ampli che hai è per HF anche? No. Sì, 030, 0, beh, se no cosa lo prendevo a fare, cazzo, prendo qui si dirà per i baracchini, no, per i baracchini avevo il B300P ed era più che sufficiente, capito? E questo adesso lo sto usando così perché HF non lo sto più facendo, però è 030. E pompa forte in mano laterale quasi 900 nei dati, 850. Va bene. E cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non me lo ricordo, vabbè. Non me lo ricordo adesso. Ah, Massimilia, ti ho detto poco fa, chi te l'ha fatta nel tuo, forse non mi hai capito, nella tua radio, no? La gemella di questa, chi te l'ha fatto quel rivestimento in plastica che faccio fare Elbex, qui a Sassari? L'ho fatta io, a Sassari. L'hai fatta tu? bellissima, poi l'ho vista anche dal vivo, quindi non c'è problema. Molto molto bella, il suo rivestimento in plastica a fine al mondo, molto bella, ma come si graffia? No, già va bene, ho voglia, va benissimo. Ehi, ehi, è positivo, positivo. No, volevo dire una cosa a Tino, che se mi sono dimenticato, no, non me la metto più, è la vecchiaia Carogna, dai. Mi fa scendere tutti i nobili. Aspetta, sto io, sono ancora agganciato, sono aspetto che mi telefonerà qualcuno, vero? No, no, ti ho fatto quella domanda lì proprio per quello, cioè, per la pena per attaccare anche altro radio, non solo per i giocatorini. Potenza d'ingresso? Potenza d'ingresso è da 0 a 15 watt. Va bene. Allora, nel caso che mi rilanciate non rispondo, non vi preoccupate, sono i fornelli. Ti saluto la graviglia. C'è una buona intenzione, ma c'è freddo adesso fuori, domani, dai, c'è tutto il tempo domani senza toccare. Io mi sto per fare la similea, non me la futti nulla, mi lavoro, manna. È bello, il caminetto dentro casa è troppo bello, va. Cazzo, Massimiliano, quel salone che c'hai così grande ci sta passando, viene bella in quell'angolo dove c'è la finestra lì. Mamma mia che bella che viene. Ma qui non è detto che devi mettere per forza nell'angolo. No, ma infatti io non lo metto nell'angolo, io lo faccio tra un pilastro e il frigorifero. Lo faccio da 1,50 m. E poi largo lo farò buono, 80, capito? 80, 90, adesso vediamo. Un attimo, Massimiliano, se hai intenzione anche di farlo eterno, anche meglio. Lo devo allontanare. Io, va bene. Sì, chi è? Avanti. Guarda adesso come sta uscendo l'apparato. Sta uscendo un po' così, dai, cos'è questo? Questo è un gara. Come un po' così, fischi, fischiati, roba. No, niente, già, se non c'hai eco, non c'è nulla. Lo sai cosa ho fatto? Ecco, adesso sei tu già. Dimmi che cos'è? La ciabatta! Figurati. Che cos'è già la ciabatta? E te l'ha girato 100.000 volte, ma. Capire a Gianni che io non lo capisco. No, adesso infatti lo sta rifacendo già. Sta facendo tutto, ma non si capisce niente. Gianni, sacca l'eco. Così è tolto. Ma sta un po' Mike Gain già. No, sta facendo male. C'è la modulazione, è un po' strana, boh. Non so cosa cavolo li ha preso a quella radio di nuovo. Io non l'ho comprato, mi ha detto te lo Massimiliano, quello di Dani l'ho preso. Massimiliano. Cosa si compra? Sato un ecco. Eia, sato un ecco, lunedì me lo porta perché domani, dopo domani è incasinato, me lo porta lunedì. Deve portare anche lo specchietto dell'Alfa. E poi avremo tutto un conto, ma io 200 euro me l'ha dato a me. Bello, nuovo, ma ho visto le foto. Ne metto un MB più 5 e poi c'è un baracchino serio, un baracchino che posso usare quando voglio. Anche gli altri sono tutti perfetti, però sono più vintage di quello, capite? E già andava, già va bene, già va bene. Ma questo qua è quello che stai dando tu, è un 3009 di quello vecchio? Il 3009 è quello senza frequenzimetro, ma quello c'è già nel corto. Ma bello, ti mando la foto, bello, tutto illuminato, tutto di un colore, tutto bellissimo. Hai acquistato dove? In continente o qua? No, qua, io questo qua praticamente era qua. Poi l'ho dato a una persona e se ne è disfatta e è tornata a me. Ah, ho capito, andava, era. Già va bene. Guarda adesso come è stato, così c'è la normale. Peggio. La mano in peggio si è andato. No, già c'è qualcosa da vedere, dai. Non so cosa le sia capitato di nuovo, sei tutta fischi, tutta inneschi, no, si capisce un cacchio la modulazione. La radio bella è lui, questa col microfono normale tutto chiuso, no? Tu Garie, boh, ma perché mi abbandonate così, cazzo? Pronto, c'è qualcuno, passo. aiutaci a dire il telefono, la massa viene varia. Cazzo, ho risparmiato la mia nipote, capito? Questo io sai che sto cucinando anche la pizza, e sono qua e là, devo urlare subito. Perché se voi state parlando io rischio di bruciare anche la pizza. Dimmi cla. Ho detto se va bene con l'eco chiuso la radio, se è bella come ha detto Tino. Va bene, va bene. Aspetta un attimo. Massimi, che fine hai fatto? Stai prendendo già le misure della ziminea? Cosa stai prendendo? Le misure della ziminea? Magari è mancata la luce. Oh, la luce è mancata, caspita. Allora, va bene. È una mia teoria. Ciao. Non lo so, no, c'è un problema lì ai punti. Non lo so se sia un problema di luce o un problema di che cosa, ma poi se sia andato nuovamente a fare la pipì Massimiliano. Qua ho oscillato, è stato un istante che è mancata, un istante però. Aia, va bene, va bene. Mi stai ascoltando bene, Marco, sì? Ottimamente. Somiglia vagamente alla modulazione di Vulcano, capito? Sembri Luigi Vulcano, mi. E infatti stasera già mi hanno chiamato Gigi Vulcano, stavo provando sul 10 e è entrato un camionista, ha detto, Gigi! Ho detto, no, non sono Gigi, io sono Claudio Sparviero, ah, tu sì, ciao Cla! Mi ha detto il nome, eccetera, ci abbiamo fatto due passaggini e poi stava rientrando a casa e aveva finito di lavorare. Va bene, ma allora se così sono Gigi Vulcano, così chi sono? Oh yeah! Così sei Gigi Vulcano con l'eco. Va bene, va bene, dai. Abbiamo rimesso in sesto questo baldracchino, come lo chiama qualcuno, a fare un po' di bordello quando c'è propagazione il 45, di sugar. Con quel lineare faccio danno, ma danno forte, minchia, mi segnerò. Cazzo Latino sono arrivato più 40, figurati che arrivo più 10, mi pare, o più 15, normale, per sugar. No, di più, prima andato a controllo mi pare ti aveva detto tipo da 9,49, da 20 a 50, o no, da 20 a 40 mi pare, 4 Santiago, va bene, dai prendete, io ci sono o non ci sono, sto facendo il caffè tanto per cambiare, ciao, corretti, qua è Luca. Ciao Marco. Anche Gianni c'è, già. Buonasera, vai. Ehi già, ho sentito appena si è entrato io ti ho riconosciuto, ma c'era il fischio che faceva sparire la modulazione, dai, appena è entrato. Sì, quindi non è la ciabatta, non è. Deve essere la radio già, bisogna dargli una scucciolata. Già l'ha portato a vedere, dai. Adesso vediamo. Aspetta che abbasso un po' il coso qua, che sennò. Dai, a dopo. Ecco qua, 1, 2, 3, bravo. Andate là, già ne ho di apparecchi, una in meno, pido di recuperare la mondezza. Non credo che sia un problema, sarà un problema di masse interne. Boh. Claudio, riprendi quelli ti per me, ciao. Ciao a tutti, mi pare c'era Massimiliano, Luigi, forse Danilo ancora, Luca, chi altri c'era? Vai Claudio. Ha fatto un buco nome, Danilo non c'è, Luigi non c'è, ci siamo io, Gianni e Luca Del Monte, che sta controllando la pizza, e Massimiliano avesse andato in bagno. Ho detto già, adesso ve l'ho comprato io, il Galaxy Zirampiro 2, come è questa cosa? Io sono ripreso, Vedrai che una cazzata si può aggiustare, non c'è problema. Adesso lo chiedo anche a Gabino se me lo fa. Se me lo fa Gabino lo faccio fare a lui, ma è un rientro di radiofrequenza sul microfono, mi già, non è cazzo sempre da sciutti, è una coglionata sicuramente. Hai provato a mettere il microfono normale a vedere se lo fa? Certo, l'ho provato con te stasera, lo facevo lo stesso. Allora è qualche rientro che c'hai lì, ma la radio non c'ha niente. Se la prova Gavino al laboratorio, porta la Gavino, che Gavino c'ha l'antenna, c'ha tutto. Se la prova lui lì, se non fa inneschi vuol dire c'è un problema lì da TDRF, da qualche cosa. Sta attento, non si addora la cavo e vediene Baruguru, capito? Perché io ne ho le balle piene in queste cave. Io guarda, ce li ho buttati tutti, ho preso 4, 5, 6 metri, 6 metri da su di H1000, ho comprato i PL da Fusaro, anche quelli scadenti, e le ho messo l'H1000, che va dalla commutazione di una scrivania all'altra, perché con l'RG58 mi faceva un casino di Gesù Cristo, per quello te lo sto dicendo. Gianni? Dimmi, ma ci vediamo. Ascolta, una curiosità, hai provato a mettergli l'antenna diretta? Sì, sì, ho provato, ma fa lo stesso, dai. Ho provato, ho fatto mille prove, ho cambiato tutti gli spezzoni, insomma. In 8 tempi pensavo che fosse la ciabatta, perché all'inizio non mi ha fatto nessun rumore, poi l'ha fatto. Adesso comunque lo apro e li metto, lo pulisco là, insomma. Basta, tutto lì, lo pulisco e boh. Se poi vedo che lo fa ancora, lo porto dal dottore. Solo una curiosità, lo stai attaccando a 220 o a 12? No, questo va solo a 220, ma ci vedo. Come va solo a 220? C'è anche il 13,8 quello. Questo qua, tu? Non l'ho mai attaccato io. Allora, se tu guardi dietro, quello lì c'ha l'ingresso come l'ala 48. C'ha l'ingresso come l'ala 48. Lo devi provare a 12, a vedere se lo fa. Lo attacchi all'alimentatore a 12. Ma che macchina è già? Galaxy. Cazzo, non è un problema, va. Cazzo, niente andava uno nuovo, mamma mia, no. Qua a me già sono belli come baracchini, però sono barrasoni, ci vuole spazio, un bel di spazio. No, non lo sai perché ho mollato in fretta, perché ho sentito un rumore allucinante giù, allora giù ho detto, sai cosa è successo? Siamo tutti su, ha detto, è successo qualcosa, budu bum bum bum, ha detto, ma che duro, mi ne erano prendendo la Ianna. Invece scendo giù e allora quell'amico mio mi ha cambiato la bombola, sono preso come ha cabezzato e stava facendo casino, che non riuscivo a fare, dovevo prendergli, pagargli la bombola là. Piazza di erbo, ti sei invernato lì sotto, se non sono dove entrare adesso è un casino anche a trovarti. Vabbè, sì Gianni, c'è l'alimentazione a 12, c'è quello piatto a 3, come l'Alan 48, come questo, come il 3009, c'è lo stesso attacco del 3009 già per capirci. Per me è l'alimentatore di quella radio, se lui lo prova a 13,8, gli attacca l'alimentazione a 12 e vede se gli fa il problema, se non gli fa il problema vuol dire che l'alimentatore della 220. Ma infatti queste sono prove da fare, non è che bisogna farle. Hai lo stesso attacco Gianni, guarda bene, perché è lo stesso attacco del 3009, quello piatto dell'Alan 48, e lo puoi attaccare al Galaxy, perché l'ho visto io, capito, quindi non c'è problema. E così vedi un po' se la 220, come ti sta dicendo, che c'è qualche rientro di RF, va a disturbare il microfono, capito, la trasmissione, o se la radio proprio che vuole controllata bene. Già, il cazzo di aria, vuol dire che il tuo Galaxy che non ce l'ha, io quello che ho preso, ok, perché mi hanno fatto le foto davanti, dietro, sopra, c'è l'attacco a 12 volte che è uguale al 3009, quello piatto a 3. No, non c'è qua, nessun Galaxy che io ho avuto aveva l'attacco a 12, sono sicuro. Ascolta, io vado, dai, che devo portare il cane, ci sentiamo dopo magari. Già non lo so, io ne ho avuto 3 di Galaxy, 2 ce l'avevano, 1 non mi ricordo, ma 2 ce l'avevano perché lo usava 12 volte, perché il trasformatore ronzava ed è quello che ho dato a Nino 1 di Ossieri, quindi me lo ricordo perfettamente, non è che sto facendo balle. E quest'altro che ho comprato ce l'ha, evidentemente hanno fatto delle serie con l'attacco a 12 e delle serie attacco no, non lo so, ma simile può essere. Già può essere sì, ce ne sono proprio due serie. C'è la serie nuova del Galaxy che al posto di avere la leva e la ce l'ha. E quello già il modello nuovo, c'è il modello vecchio che c'ha la leva per me per on e off là. Ma ha confermato anche Antonio, ce l'ha perché io ne ho avuto 3, 2 ce l'avevano e uno no. Uno ad esempio non aveva i pomelli cromati, gli altri due avevano i pomelli cromati, quello con i pomelli cromati come questo che ho preso c'ha l'attacco a 12 volts. Quindi sicuramente sono due serie, già tutti quelli che hai avuto, quanto ne hai avuto? 3, 4, non lo so. Evidentemente erano delle serie che non ce l'avevano. Vabbè, dai, comunque, io ho preso quello 12 e 220. Avanti, Anto, buonasera. A casa non avete? Cosa, fammi? A casa non avete? Sì, buonasera, mi sono raccontando di duretto e mi stavo ascoltando. Cazzo, non mi cuffia, Cazza, Cosa, Luca, che cosa? Vabbè, la cosa. racconti solo d'uno, racconti d'uno, se vuoi racconto. Sì. Gamba, mi sto agitando il letto, amore con tre piedi, voglio vedere se mi raddorra. Oh Luca, quante segnali di da te così liscio? Vai. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quante segnali liscio? Davanti al più, sì. Davanti? Sì. Yeah. Aspetta che aggancio a vedere se va lo zero. Lo zero arriva solo uno e boh qua. Gianni, sul 3 lo zero arriva che è più vicino, dai. Sì, vabbè, non è detto che debba arrivare solo chi ti è più vicino, che sono arrivato 40 attino. Guarda a vedere, Gianni arriva a 50 che è a due passi, guarda a vedere quanto ti arrivo adesso. Sì, proprio davanti al 3. Davanti al 3, quindi supera praticamente le due linee del 3, sulla pancia del 3. No, sì, sta avanti al 3, in mezzo, tra il più e il 3. Figurati, vabbè, poi uno baracchini così no, puoi fare la cosa, Tino già me l'ha dato giusto. Va bene, sgancio di nuovo, Antonio mantenendo la radio. Marchisio mi arriva sullo 0. Tore quasi sullo 0, pochi arrivano, ora sono 2, forse 2, 3, 2. Non ti preoccupare, che fra un po' di tempo lo porto pure io il bambino. Ma c'è il bombolino è proprio in mezzo, tra il più e lo 0. Ma tra il più e il 3, proprio in mezzo. Tu sei poco più cioè, proprio davanti al 3, capito? Questa è come ha fatto il 3, sei proprio davanti, altro è proprio in mezzo. Quindi è più alto o più basso del segnale che c'ho io adesso? No, è più alto. È più alto Antonio, è normale. È più alto. Antonio più alto. Tu! Ah, sono più alto io di Antonio. Contami, ce l'hai molto, molto più vicino. Una bella bestia questa. Anto, io te l'ho già detto, te lo auguro con tutto il cuore. Per il male che ti voglio, capito? Che ti voglio solo bene, che tu riesci a comprarti un lineare del genere, attaccarlo lì e arrivare in capo al mondo da tutte le parti, perché questo è un signor lineare, stai attento, non è un giocattolo, è un signor lineare. Lo so, prima o poi ci arriverò. Te l'ho già spiegato, devi fare sacrifici, capito? Perché costa una barca di soldi, ma una barca però, ti esce una KF se andai a comprare un affare del genere usato. Avanti Massimiliano. Dai, riprendete che io sto riparando. Io fuori quattro blocchetti, tu e nei buchi di me, guardi la futti. E la radio rimane sempre bella, Massimiliano, non la disturba, Alci picchia, che cosa squisita che... No, negativo, anzi, l'aumenta un bel, però rimane sempre buona. Ah, bello. Kappa. No, ma me ne sono accorto col DAC, col Midland, con l'Inuit, con l'Intec, col Pony. La sera si è attaccato a Robone, si è assoltato così. Arrivavo fondo scala pieno, proprio pieno a muros. Non c'era più segnale da guardare. Non sta più difettando il microfono, Massimiliano? No, negativo. Sgancia, io mi sto facendo induttero. Scusa, stavo facendo una prova con Luca che non l'avevo fatta ancora. Poi quando sei qua a casa di tua madre lo facciamo la prova a vedere se arriviamo sullo zero. O se ti posso ribaltare la radio. Bella, sì, Massimiliano, bella. Quella cosa lì, ma tu li hai di quella pellicola, Massimiliano? Oh, bisogna comprarla? No, io l'avevo presa dai cinesi. Oh, allora bisogna... E dove, Massimiliano? Mi devi dare l'input, così ti prendo tutto, però me l'attacchi tu. Anch'io faccio la tremoletta, tu sei più giovane, poi faccio le bolle. Tutti i cinesi, Firari, non ti preoccupare, tutti quanti. C'è anche addirittura così, c'è anche rossa, però così è più carino, là, più rifinito. No, nera come quello tuo, nera così con queste striscettine grigie, bella. Faccio l'herbex così, intanto è uguale a Ghisa l'herbex. Li ho appoggiati uno vicino all'altro, sono uguali anche come dimensioni. Devo vedere se c'è la staffa dell'herbex, Massimiliano, che te la do, intanto io non idrato. Da qualche parte ci deve essere la staffa dell'herbex. Vabbè, non c'è problema. No, problema. Gava. Ehi, no. La prendo e davvero ti do l'herbex e me lo fai. Perché è molto bella. È bellissima quella cosa lì. È molto bella. Poi si vede bene luce. anche a un'altra persona questi lavori, però senza essere così adesivo, no? Proprio a vernice. Sì, sì, positivo, e vabbè. Io l'ho fatta così perché nei coperchietti c'era qualche graffiettino e allora ci ho messo quella là. Ma l'hai fatta bella, bella, bella, bella. Bella, e dalla foto si vede anche molto bene, eh? Non è che non si veda. Però già va bene. Che cosa è fatta? Le nuove manco vinti, ma cosa lì? Ah, maniamo o non maniamo? Beh. Ah, boh, io mi ancora non ho pronto nulla. No, noi abbiamo già tutto pronto al forno. Già tutto pronto, ci ho fatto degli battati con lo rosmarino, ma siccome oggi sarà buono, mi piace un bel patato al forno, ma poi non so, boh, da c'è giusto fiago di fava, boh. Che poi fa un fiago di bisillo, cara cara, io lo carriera. Allora io vado a mangiare, là. Sto facendo un video per un amico, Roberto Bandito, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, che sta, vabbè, fuori da tanti anni. Un vecchio CP, però quando scende qua già attacca ogni tanto, là. Quando scende qua a Sassari. E niente, io vado a mandigare. Se ci siete dopo, bene, se no ritenetevi salutati e buona cena. Gabba gabba. Ciao, parrogino positivo, dai. Ciao, ci sentiamo alle prossimine. Ciao, Lugaria. Buona carichetta, buon tutto, là. Avanti, qua. Ciao, Lu, tante cosce belle. Saluta a Marina, già sentiamo se coincide dopo. Ah, vabbè, tu rimani lì, quindi non sali stasera da mamma Duia. Va bene, va, già ci aggiorniamo. Avanti, Massimo. Oi, oi, gara, gara. Ascolta, fammi ascolta, ce l'ho quella radio. Sì, sì che c'è, l'ho chiuso però, l'ho chiuso per non disturbare, va. Però già c'è, sì, sì, funziona perfettamente. Ah, ok, va bene, ok. Vediamo, Bombolino si è ripreso. Bombolo, ci stai? E con Senderoletto, che ne farà dalla Lanca. E ha giudito a pulirli quattro blocchetti. E si era giudito da rompere una bombola sotto. Ah, va, è buon culo in tre piedi, però non si barra più. Poi quattro mesi da fila, tu. Vai, a tu. Poi un mese sotto che per fare il salto del leone. Io una volta l'ho già fatto, capito, l'ho appena sposato, ho fatto il salto da leone, dall'armadio, a pigliare in pieno, ma mia moglie invece ha giubilato lo spigolo di Roletto, Antonio. Immaginaci a Dindù cosa è successo. Lo sai, lasciami la etapa. Allora, è il salto del leone, cara. Il salto del leone si sposino, mi ha tanto di piace i salti del leone. E invece biglietta ci ho bigliato lo spigolo di Roletto ed era a letto in ferro. Mamma di turchi, come sto? Qui panduglia, Purtroppo è così, mi sa e ridende. Ridendo stasera, allora, tu glielo dici a Sara, io che facciamo il salto del leone, vedi che ti bassa. Andiamo a dire che l'ha fatto il salto del leone. Ma se ne hai visto cosa vuol dire essere giovane, quando lo facevamo noi che... Ma io no, io mi ricordavo a cuore invece, solo che lì ti lo finì sotto. Sì, l'importante è andare fuori da voi. Allora? Già hai compreso. C'è tutto con le zelle, ma mi curo dallo Marconi io. Dallo Marconi, non è Marconi, no, qui no. E occhi belli, pum pum pum pum, la maletta. La fascina, tu. Oh, Massimiliano, ti volevo dire, ho notato però qua nella mia che c'è un non so se è un problema, se l'hanno messa così. La lampadina dello Smith, no? Che è del colore di tutta la radio, eccetera, è tutta una berra, e praticamente lo Smith si vede dal più in poi. Ma è un difetto o che cos'è? No, magari l'hanno messa così, magari bisogna spostarla più al centro, boh, capito. Sono spostata più al centro, magari se sono spostata all'interno, non mi so, boh, mi allora. Riprendo dopo che ne devo bucare completamente la bramazza, dai. Riprendo dopo. A tu, lascia la rete, buh. Vedi che trovo in terra, dumme. Lo sa, stai attento, a me che ti vuoi che trovo in terra, stanotte Antonio. Quando racconto io, ma se qua c'è un bel occhio. mappa. Sì, Massimiliano, secondo me si è spostata. Magari vuole messa un po' più al centro, capito? Perché i segnali bassi non li vedo. È illuminato dal più in poi, capito? A metà praticamente. Ora non due lampadine, una si è fulminata, ma non credo. Boh, non so, ma conosco questa radio, cosa ne so. Vuole sistemata la lampadina messa più al centro, boh, non lo so, claro. Vuoi vedere? E io te la faccio vedere, dai, non c'è problema. Non c'è problema, già va bene, già va bene. E come stavo dicendo un'altra cosa, non mi ricordo, lei, poi ci aggiorniamo su WhatsApp, no, non c'è problema. Ma e cosa ci modula tutta la gira con un microfono in mano? Grazie a Osama, ma mi piace modulare con un microfono in mano. L'hai sentita questa radio? Va bene, a posto, me l'hai regolata. Posso bussarmi la sagadria? Ehi, bussa della sagadria, tanto, Claudio, altri 2-3 minuti, dai, poi me ne scendo giù, e così iniziamo a mettere qualcosa nello stogamo. E io la aspetto qua, va? Così la faccio andare sta radio. Va bene, va bene. Ovvero lo Smith che viaggia forte adesso. Ma non ho risolto il problema del microfono perché mi girava un po' le balle, ma mi hai detto tu che era sporco, quindi l'ho aperto e adesso funziona alla grande. Già va bene, già va bene. E infatti un altro passaggio, poi ci andiamo a pappare, sono già almeno un quarto. Cioè, sì, io quello che io dico, cazzo, quando vendere le radio senza un microfono. Uno si deve arrangiare a buscarsi il microfono, cazzo, quello io lo odio, va. Vabbè. Comunque, quello è perché non lo stavo usando, era dentro lo scavatore buttato in mezzo alla polvere, capito? Però va bene, va, un CT è quello lì, già ho visto, già si accoppia bene. No, va bene, ma si vede, ma infatti te l'ho detto, se ce l'hai, se no io ce ne ho uno di quelli che non sono, insomma, come questo. Però la connessione era diversa, capito? Me l'avrei fatta cambiare, l'avrei cambiata io, non so, tutto qua, però già funziona bene, no, non c'è problema. Un'altra cosa, ti stavo dicendo, asciuga sta memoria, mi manca, minchia, ragazzi, non me la metto più, vabbè. Ah sì, di questa cosa ti faccio la foto, perché sicuramente o ci sono due lampadine, una si è fulminata, oppure vuole spostata un po' più al centro, però è una cosa che non faccio io, perché non ne so fare, no, non me ne intendo, gli uomini vanno da lui, ma te la faccio vedere a te, te la do, me la fai tu, poi già ci aggiorniamo su WhatsApp. Io non c'è problema, là, già lo vediamo, non è un problema quello. Mi sono avvicinato troppo col microfono, è vero, rugoso, no, è tutto chiuso per l'ascolto, ecco perché stava, mi ha dato un inneschetto. Ecco cosa cazzo ti volevo dire, ma spedita l'hai l'altra radio, ancora lì ce l'hai? No, ce l'ho ancora qui, la spedisco lunedì, dai. Tanto ci siamo già sentiti, e per spedirla oggi, tanto poi rimane ferma sabato e domenica, gli ho detto direttamente a lunedì. Capito, io la mando lunedì. E come ha detto a me, il tecnico lo stesso, l'ha terminata, l'ha provata, il 140 tutto a posto e adesso mi deve mandare un messaggio su WhatsApp per il pagamento e niente, ma te la spedisco direttamente lunedì, perché non te la spedirtela oggi quando poi sabato e domenica rimane buttata, te la spedisco direttamente lunedì, hai fatto bene. Ma tienila ancora, se non c'ha fretta lui che ti ha detto di controllarla bene eccetera, tienila sotto controllo e usala e fatti due passaggi, vabbè che a te la fa vedere un viso al radio. Non è che hai molto posto lì, con tutti i baracchini, vai. Ehi, claro, adesso non ci sto pensando. Non ci sto manco pensando, anzi addirittura la volevo imballare direttamente per essere pronta, però addirittura la lascio ancora sulla scrivania, io la piglio in Napoli. Adesso vediamo. Vabbè, lo devo sentire, va, lo devo sentire, però ancora gli ho detto che ce l'ha, che in revisione, là, diciamo così, però già ce l'ho qua, così la uso, adesso vediamo. E vabbè, se rimane quella persona là, sei pur certo che è già tutto a posto, non ti preoccupare, gaffa gaffa, mentre l'altra invece tempi ancora altre 10-15 giorni. Ma io penso che prima stavo controllando la spedizione e è arrivata in frontiera, quindi penso che avanti dimmo arrivato in bagaglio la frontiera, boh, penso che un po' ancora non mi arrivi tenuta, però già ce l'ho sott'occhio. E vabbè, da lì sempre un mesetto ci vuole, un mese qualcosa, capito? Si è mai detto che l'hai ordinata già da un po', penso che per fine mese sarà qua, là. Fine mese, primi febbraio sarà qua. Claro, l'ho ordinata una settimana prima di Natale, fate il conto, ci sono le feste in mezzo, quindi quando arrivi da Ghidà la radio ci mette sempre un mese e mezzo, di usare, quindi non è neanche un mese ancora, capito? Gappa, andrà bene, là, Claudio, al limite ci ascoltiamo dopo, se coincide, non lo so, se riprendo, però là, adesso me la scendo un po' giù e vediamo di fare qualcosa, là. Ehi, Massimiliano, stavo dicendo già, infatti, allora accendo il telefono, sto arrivando, dai. Ok, dai, un abbraccio a casa e ci aggiorniamo su WhatsApp, Massimiliano, dopo, se poi ne hai voglia. Tanto dopo sicuramente entra Antonio, Luca, insomma, Gianni, magari qualcuno già entra sempre la sera, dai, ci facciamo due chiacchiere. Ciao, buona cena e buon tutto, ok? Grazie dell'info e grazie di tutto, ciao. Ehi, ehi, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao. Oh, yeah. Atmosfera, la la la la la. Mamma mia, come sto. Uia. E beh, perivella. Attento, perivella. Ehi, Claudio, stavi chiamando. Che sono andato a... come si dice? A farmi la doccia. E io ho chiamato a vedere se c'era qualcuno, ma gli ultimi non vengono giù, sto guardando la TV. Ehi, capami, dimmi, sono fatto appena la luce, che? Lui ha appena finito. Ma giù pure sotto le piedi, e se a vedere se c'è il bidet già d'ora. Chi due è rimasto rubato attaccato, si è paccato rubati. Cioè, si è paccato un gol, come ti dite? Per il pezzo della piazza là di sotto. Voglio vedere con chi c'è tre pezzi si è piaciuto di qualche cosa. Eh beh, non penso, se l'ho rinforzato così no, non le fa niente. Sicuramente già tiene adesso. Capo, un po' di lavoro c'è voluto, ma... Sì, vabbè, un po' di lavoro, ma almeno sei sicuro che non ti c'è i bideggi. Capo, ti ho fatto vedere, non mi trovo in casa. Tu sei un grande, cazzo, ma adesso non paga mai, obbliga. Ah, perché era mobiliata? Eia, sì, quando l'ho preso era mobiliata. Tutti grazie, è bello, che cosa, ma non paga mai i suoi occhi. Ehi, hai detto, guarda che sono rotto il letto, me ne porti un altro nuovo. E già gli ho detto, però no, te lo posso portare un reddito, ma che tu mi dai un buco in terra. Vai, vai, ecco io gioca, vai. Già me la consumo io. Sì, è vero, me l'hai fatto entrare per portare nuovo. Perché se te lo porta lunedì, te lo fai portare nuovo. Cappa. E ci inizieremo, vai, non ammara. Ecco. Cacca buru al vento, vabbè. Ecco. Cosa? Oh. Ecco, così va bene. Tanto già muoiono, cosa? No, io ho attaccato tutto, tanto mi sto andando con 10 watt della radio, basta, e va bene le prove, non si può fare sempre quelle cose attaccate, quello io l'ho preparato, se c'è preparazione è 45, ma vado a 45 a fare un po' di casotto. Cappa, poi con lui già va bene, che... No, cioè cosa occorre, non mi battono, mi così super giù sono desibate, battono e avanzano. Sì, io non ho per fare questioni noi. Non hai sentito la radio modificata? Già sto sentendo già. E ripeto, vedo un battente in occhi. Appunto quella già viaggia. ci vediamo di nuovo, beh, va bene, visto che c'è disponibilità l'abbiamo fatto, adesso lasciamo lì, quando c'è propagazione mi sposto e me ne vado lì a fare due chiacchiere, tanto se non vado alla radio modificata con l'amplificatore col cacchio che ti fanno entrare. Ah, di chi si so? E me lo pongo pure io, me. Tanto ci ho provato col capo manetta io, manco di gaggari, assolutamente. Allora voglio vedere di mantenere abbeso, non si è fatto a vedere se si entro. E tu bocca neghi sull'armadio a vedere se entri. Beh, con quello dell'armadio che viene un po' male. Ma che va bene quello lì, non c'è problema. Già va bene quello. C'è la radio modificata, capito? Poi qualche passaggio già l'ho fatto, sempre già. Il nominativo già lo conoscono, quindi giusto per fare due chiacchiere. Così conosce Massimiliano in coppia. Facci per la via io. Purtroppo è successo quello che è successo. Se no, a manco un numero può dire la gaffa, vabbè. Ah, ma figliva. E io mi sono preso anche il Galaxy, Saturnecco. Da Danilo me lo porta lunedì, 200 euro, così lo attacco, proviamo, vediamo se va bene, ma l'avevo già provato, sentito, quindi già sono tranquillo, devo mettere il microfono di tavola. Io mi ricordo quel Galaxy, comunque c'era quell'attacco, Cioè, pensandoci bene, perché ce l'avevo da via? Stai scherzando, sono due serie. Evidentemente lui ha sempre preso la serie senza il 12 volts. Io ne ho avuto due serie, ne ho avuto tre di Galaxy. Due serie avevano l'attacco anche a 12, una serie no. Però la serie che non c'aveva l'attacco a 12 volts era quello con le manopole tutte nere. Invece gli altri due erano quelli cromati, capito, argentati, con oro. E allora ce l'avevano, cazzo se ne ricordo. Io lo usavo a 12 volte perché era 220 ronzava, quindi già mi ricordo bene, non è sto facendo cazzate. Me lo ricordo pure io, me lo ricordo. C'era anche un altro tipo di radio che era così. C'aveva. Era un po' convinto di dare queste radio, cioè. Alcune erano le mie, però avevamo ragione allora. E c'era il però, ma me ne sono mezzo pentito, qualcuno me lo vuole accertare. Ecco il Galaxy, poi l'hai regalato, cazzo, lo conosco, scappagatto. Io ho pagato 200 euro, tu l'hai venduto 250, figurati. Normale, normale. Ma io l'ho preso per avere un baracchino serio, un baracchino base, non del tutto vintage, anche se è quasi vintage, però insomma, almeno completo, va. Da fare due chiacchiere con quello, l'abbino o il panel più 3B o l'MB più 5, adesso vediamo quello che va meglio. Intanto ce ne ho due io con l'attacco Galaxy, due, li provo, vediamo quello che va bene, lo lascio, capite? Cappa! Il Galaxy già era buono, io ce l'ho avuto per un po' di tempo, non che l'abbiamo venduto di più, a quanto mi ricordo io. Non l'ha venduto anche nel loro compagno, te l'ho mandato io. Non me lo ricordo, pensavo che l'avevamo venduto due giorni, gatto, di colpi il biglietto. Pensavo che l'avevamo venduto 200 euro. No, l'hai venduto 150, te l'ho mandato io Antonello. E Antonello 150, poi l'ha venduto a Marco Scorpio. Capite? Quindi, gamba la radio, ho pagato 50 euro in più, vabbè, 200 euro. Pazienza però, è quello il valore suo, è quello lì, 100 a fare. Capite? Tanto non lo sto usando più da nido. Ma l'ho detto, se lo volevo, ero un po' indeciso, adesso dovevo prendere un'altra radio vintage, non l'ho presa. E allora prendo quella lì, anche se il prezzo è uguale, però non me la fotte nulla, tanto dovevo prenderla, quella non l'ho presa più, e allora mi ho preso il Galaxy. Cappa, io mi ricordavo così, mi ricordavo che lui è passato un bel tempo, un ragazzino a menta più. Ehi, ovvia. A chi dici di no, un beso. Facciamo perdere là, che è meglio. Che io, cioè, una casa non l'avrei mai venduta, quello che l'ha venduta. Tutta piena di gozo. Lasciamo perdere là. L'ho vista quella, quella l'ha appoggiata qua, quella persona lì, perché stava facendo lavori a casa per non riempirsi di polvere. Io una, io tutte pulite, messe in ordine, e poi quando ce l'ho portata via, la nuova, cazzo, minchia, c'era di roba lì dentro. Cioè, ma secondo te si varia, diciamo, che te l'ha detto il prezzo? Decisioni Antonio ha preso suo padre e quindi comunque ce n'ha di roba lì, cazzo, erano i 4-5 baracchini belli, tutti funzionanti, capito? Rosma, trovate, dentro c'erano 3 o 4 microfoni a tavolo, Edo non ne ha fatti nulla, ma sinceramente io c'è un pochettino sofferto per quella roba lì, perché cioè, perché almeno qualcosa volevo tenermi io. Vabbè, pazienza. Io non so cosa c'era, ti ho detto lì dentro, so tutto io. Perché quando l'ha ritirata, siccome lui stava facendo lavori, è passato qua, me l'ha lasciato qua. Io ho usato tutte quelle radio, tutte, capito? Tutte le ho usate, sul 2009, quelle, tutte, l'Elbex, quello accolto, i microfoni, tutti puliti, sistemati, capito? Tone più 3B, tutte, che qua, tone più 3B, tone più 3B è qua, hai capito? Quello massimiliano è qua, quindi, sto usando io, perciò già lo so. Quello lì ce l'avevo un po' nel cuore, ce l'avevo, perché quello lì era potente, ci va bene. Però sono contento di una cosa, sono contento che ce l'hai tu. Sì, è di Massimiliano, no, non è il mio, è di Massimiliano, ce l'ho io, perché lui non lo usa, ce l'ho io. Capito? Ce l'ho io, altro. E ti posso garantire che c'è tutta quella roba lì, ce l'ha tutta Massimiliano. Non è che la data qui, assolutamente, capito? Però, non so, vabbè, per quello che c'era lì dentro, c'era un bel roba, c'era un bel Non so, vabbè, meno male che è stato così gentile una persona di darmi questo MB+4 e... poi l'ho abbinato con questa radio e sono contento. Parlano bene con il microfono, parlano benissimo alla grande. Io ne ho 7, ne ho più 7 MB più 5 più 1 MB più 4, quello della Gain è intorno più 3B. Fate un buon tornare oggi, poi ce n'è uno della Precipso che è staccato perché sono in attesa con la radio. Appena arrivo la radio lo provo, quello c'è già il connettore 4, quindi l'ho messo, così mi accusato a bella, ci sono andato tutte e quattro le vini, come ti esci, se poi c'era il ventillo l'ho inverto, e l'ho messo così senza controllare niente, già pronto, se funziona funziona, se non funziona inverto i fini, capito? Quindi vi guardi Antonaggio il microfono, sono buoni, funzionano bene, non ce n'è problema. La verità, io sono felicissimo e lo ringrazio sempre che di avermelo dato questo MB+4, è originale, va, è originale, va, che è una cannonata, sono contento la verità, sono molto contento. Qualità prezzo sono microfoni che fanno il suo lavoro e che funzionano molto bene, molto molto bene. Non ho grido io, e quando l'ho preso c'avevo anche la batteria sta scarica, l'ho messa nuova, l'abbiamo fatto tutto, cioè abbiamo veramente, poi mi ha fatto un bel lavoro Antonello, la verità è molto professionale lui lavorando, l'ho visto io, bravo, la verità. di nuda. Lo fa per passione anche lui, quindi fate il suo lavoro, se c'è qualcosa da farle fare, il microfono da cambiare qualcosa e glielo do a lui. Lo pago come ho sempre fatto, e mi devo trovare in dosci, si tocca la domanda più di nessuno. No, va. È la prima volta che l'avevo visto lavorare, cioè, bravo, veramente. Si vede che, vabbè, che lui ha fatto anche il tecnico in passato e veramente bravo. Cioè, proprio professionale, con gli occhialini giusti, col coso, sentendolo in cuffia, bravo, dico la verità. Il suo mestiere lo sa fare. Ma certo, poi conosce anche un po' la componentistica, quindi molto importante quello, capito, quando sai che una cosa non funziona, serve veramente le mani, molti si mettono a pasticciare, no, non funziona l'uscita, se una cosa non la sai fare, la devi fare, perché poi faranno, io non tocco niente, se non sono all'altezza di poter fare una cosa, se no fai solo danno, fai solo danno. Guarda, io so fare tante altre cose, ma di fatto di saldare non mi sono cosa di buono, no, la verità ti dico. Non sono tanto bravo, lo lascio fare a chi lo sa fare. Io, cioè, i BL li so fare, perché quello lì mi sono specializzato abbastanza bene. Infatti quelle cose lì me le faccio io, tutte. E grazie a Dio non è mai andato male niente. So fare tante cose, lavorare in casa la pena me la gioco piazzata, io la giuro, che non ne ho mai piazzato io di niente. Cioè, ma se magari ho piazzato che sono rotto di coboro, mi sono messo e me la sono fatta io, a modo mio. Però di altre cose no, la verità, no. Non sono bravo facendo le saldature piccoline. Devo specializzarmi. Non mi vale a fare quella polia. A me mi viene un po' di salita, perché non ci vedo, anch'io c'ho la lente. Sbaglio, voto, quindi me lo faccio fare anch'io, non ti preoccupare, lo sia giusto, capito? Perché uno che è abituato a fare quelle cose le fa anche chiusi, uno che le fa ogni tanto, una volta all'anno, a ciamba sul connettore e le viene salita, perché è una rottura di balle. Sì, lo so com'è. Sì, no, anche io quelle cose lì me le faccio fare, perché poi e magari non ho le attrezzi adatti, cioè le cose, cioè il saldatore ce l'ho, però e poi perdo la pazienza e no, cioè fare BL li so fare molto bene, però fare altre cose così, cosa vuoi fare? Già c'è una gente che deve fare così a tu. Non c'è problema, si baga e si va di là. Guarda, me l'ha fatto anche Luca, la verità, molto bravo, Luca mi ha fatto le cose, mi ha rimesso i fili del 550, perché ci siamo rotti, ho fatto un metto casino anche dell'altra radio, me l'ha messo sistemata lui, Luca Del Monte. Bravo, la verità, lavora bene, la verità. Luca ha molta dimestichezza con me, sopra se lavora sui telefonini, capito, ma ha cambiato il frontalino, tutto al coso, al telefono di mia figlia, tutto display nuovo, li ha messi, molto bravo, si impegna, aggiusta televisori, fa un sacco di cose, capito? Perché passa anche elettronica, perché sa dove mettere le mani, chi non le cose non le sa fare, li va a imballare. No, pure a me l'elettronica mi piace, però più altro genere so fare. So fare altri lavori, so fare. Tranne che la verità, le saldature piccole proprio no, non c'è verso. Infatti saldature più grandi, no, il connettore mi hanno sempre rotto le balle, la verità. è una cosa che mi dà un bel fastidio. Spezzoni, queste cose, ma io c'ho tutto. C'ho tutti i cavetti da Icom a Kenwood, da Kenwood da Icom, posso usare qualsiasi tipo di microfono, io esio. C'ho il cavetto per l'MC60 già testato Yaesio, stacco quello primo, attacco quello Yaesio, ma me li hanno tutti fatti, la verità. Me li ha fatti Andrea, nell'oceano, me li ha fatti lui. E quando mi serve qualcosa vado sempre a lui, ma lo faccio fare perché io non ho anche un bazzetto, non faccio buono, non avevo nulla. Non so. L'ho già sentito, ma sta sempre modulando, sta. Beh, alla 27 l'ha mollata quando è diventato l'animatore, poi impegnato con la sua associazione, c'è un sacco di cose da fare. Ci ascolta, ogni tanto me lo dice che mi sente a me spesso, ma no, ci ascolta a tutti un po' il canale 10, ma non entra, no. Non c'ha niente per entrare qua, capito? C'è altre cose, ma amatoriale fa il batte. Ah, ho capito. Stavo dicendo, allora, i connettori grossi, i PL, io ho visto che, ho visto una cosa un giorno, che io non ne ho fatto ancora uno, che il polo centrale, vabbè, si salda, giustamente, però ho visto anche che qualcuno dentro il PL, dopo, lo riempie di stagno, è vero. Cioè, dove ci sono quelle fessure, li metto un po' di stagno per ritenere di più. Ah, non ci ho mai fatto di fingabbiati, ma usa stagno. No, te no. Io faccio uscire il centrale, ma una volta che ha avvittato, perché lo devi mantenere con il capo con la pinza, e dietro devi avvittarlo con la pinza, tutta la calza deve essere bella avvittata. Una volta che esce il centrale, poi le salve centrale, domani si molla. Sei stretto bene, capito? Io riesco a fare ben bene quelli, me li ho fatti tutti io. Non mi ha mai avuto un problema, non mi si è staccato niente, nulla. Anche io, però ho visto questa cosa qua, te la volevo chiedere. Anche io li faccio così, quelli dell'RG58, li prendo proprio quelli adatti, non ne prendo con l'adattatore perché ti danno un sacco di problemi. Proprio quelli adatti per quel tipo di capo e li avvito così, vabbè, io li avvito a mano, li avvito quando sono belli stretti, da saldo, finito il discorso, e metto il coso in linea, li saldo dentro, boh, non li appoggio neanche tanto saldato anche i CBL, sono un po' go, se no vanno a finire male. Io li faccio così. Io sto parlando di RG58, sto parlando di 213, di H1000, quelli grossi, capo grosso, il PL, una volta che tiri la calza nel capo, deve andare a avvitare, proprio a stringere la calza e la plastica, la gomma, capito? Deve stringere bene. Una volta che è uscito poi il centrale, che il PL è stretto bene al capo grosso, allora lo saldi. Senza andare a gaggare, stagno contro stagno, non si muovono, assolutamente. E poi dove c'è la calza, una volta che è stretto bene, lì lo vulcanizzo, una passata vulcanizzata diventa proprio plastica. Lo mantengo un po' con la mano, lo scaldo un po' con la mano, diventa la gomma. E non si muovono, tranquillo, io ce li ho su nel tetto e sono eterni. Mi dirà Luca quando abbiamo smontato, gli ha fatto vedere i PL che abbiamo smontato, quando abbiamo smontato le direttive, lucidi, lo so se dire lucidi, perché erano vulcanizzati, lucidi, ma lucidi, lucidi, nuovi, nuovi, nuovi. Capa. Anche, vabbè, comunque il trattamento è quasi lo stesso, Quello là va avvitato con la pinta, con il pagato, quello che vuoi, va affittato. Questi qua sono un pochettino più leggeri, vanno affittati a mano, belli forti, non si staccano più però. Non si staccano più, no, una volta che li hai stretti non si staccano. Ma lì c'è una rottura di balle, quello grosso, mamma mia, la fatica che fai, cazzo, devi stringere bene con la pinza. Devi mantenere con la pinza al cavo, intestata, e poi con la pinzettina papagallo piano piano andare a vittare, a vittare, a vittare, fino a quando non tocca la gomma e si blocca. parola stagno, ma venuto a tutti rispetto io, lo vulcanizzo lì dove c'è la piazza, pezzettino di naso vulcanizzante, diventa